verità. Tutto quello che si muove, muove intorno a lei. Tutto quello che le vuole, lo farai per te. Quando sei stanchissimo, lei vuole uscire poi. Quando sei incazzato, nero, ti presenta i suoi. Vorresti bestemmiare, andatene però. Addosso e allora no. Tira più velo di figa che un carro di buoi. Se non capisci che è vero son cazzi tuoi. Tira più velo di figa che un carro di buoi. Se non capisci che è vero son cazzi tuoi. Quanti amici persi a prassa, donne tipo arpie. Quanti soldi spesi, quanti pali e tutto quanto. Perché siamo tutti servi della gleba, canta Elio. Non ci si può fare niente, dunque credo che sia meglio e continuare così. Rincorrere la figa da martedì a lunedì. Tira più velo di figa che un carro di buoi. Se non capisci che è vero son cazzi tuoi. Tira più velo di figa che un carro di buoi. Se non capisci che è vero son cazzi tuoi. Quando parlo per esperienza personale. Per la figa ho fatto cose che voglio raccontare. No dai, raga, io dico. No, raga, non posso. Dice certe cose. Certe cose non si devono raccontare. Ah, dice. Dunque, l'ho portata a fare shopping proprio il giorno in cui c'era il derby di Malazzo. Mi aspettavo da mesi e per comprarmi i biglietti del cuore avevo venduto il motorino. Poi una volta ho regalato la collana di perle, l'unico ricordo della mia dorata di Rossia Costanza. E lei se l'è persa al cesso di un autogrillo sulla taverna Reggio Calabria, dove abbiamo trascorso 15 ore con la bancarella a bordo strada, poiché lei non trova un paio d'occhiali da sole carine da comprare per il viaggio. Poi un'altra volta ho portato la veterinaria il suo cincilla intenzionalmente imbarazzato e la bestiola mi ha coperto il suo gelato di merda. Beh, almeno si è liberato. Il mio amore sarà contento. Tira più velo di figa che un carro di buoi. Se non capisci che è vero